Vuoi avere informazioni sulle case di quartiere o su altri luoghi aperti alla comunità? Se vuoi avere informazioni sulle case di quartiere o su altri luoghi aperti alla comunità, ti rivolgi all'ufficio Reti e Lavoro di Comunità.